Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La politica esprime pessimi maestri e mostra perversi esempi. Meglio farne a meno. La politica da molto tempo mostra quello che è ed è sempre stata: un groviglio di personaggi che si spartisce la ricchezza dei propri asserviti usando a questo scopo ogni mezzo possibile, sia quelli leciti, cioè quelli avvallati da leggi create per loro uso e consumo, sia i sistemi più abietti e disgustosi, ben oltre quello che un truffatore ben organizzato potrebbe meditare. Bene aveva stimato le qualità che caratterizza il politico Woody Allen, che ha detto: «I politici hanno una etica tutta loro, ed è un'attacca più sotto di quella di un maniaco sessuale». Cosa ne penso? Semplice, che sono stanco di assistere al teatrino dei politici che blaterano senza sosta, ammantando di buoni propositi i loro interessi da furbi truffatori. Dobbiamo chiedere lo scioglimento delle Camere e rimandare i politici a fare un lavoro che sia dignitoso per loro e soprattutto sbarazzarci di queste persone che vivono di finanziamenti illeciti e di collusione con grandi e piccole organizzazioni criminose. Per il bene di tutti, scacciamoli dai loro scranni. Così, fra gli altri eventi positivi che questo comporterebbe, vedremo ridurre considerevolmente, se non azzerare, il debito pubblico. Non assisteremo più a nauseanti dibattiti televisivi dove non esiste il rispetto per nessuno e tutto si risolve in grida e insulti. Non ci sarà più, finalmente, chi ci dirà che per il bene del paese dobbiamo votare un personaggio che di lì a poco disattenderà qualsiasi promessa preelettorale. Dietro al personaggio politico ci sta l'uomo, e l'uomo, ce lo insegna la storia, è un abile corruttore e nel medesimo tempo facilmente corruttibile. Ogni uomo pensa soprattutto al proprio interesse, ed è questa la realtà verificabile al di là delle nostre belle speranze. Ben sappiamo che la giustizia è una chimera che di fatto non esiste. A chi non sa rinunciare alla figura del politico o della struttura di riferimento che come un sergente gli ordina cosa e come dovrà farlo, invito a riflettere che gli enti di garanzia, gli istituti di controllo, le strutture di verifica funzionano male o non funzionano sempre per il semplice motivo che gli uomini sono uomini e i politici corrotti li corrompono. Qualche esempio? Il crack Parmalat, l'affare Cirio, lo scandalo dei bond argentini, il disastro Lehman Brothers. Sulle manovre finanziarie di grandi gruppi ci sono fior fiore di enti a cui è demandato il controllo e la verifica di queste operazioni. Eppure noi risparmiatori abbiamo perso molti soldini e nessuno ce li renderà. Anzi, semplificando i fatti, finanzieri senza scrupoli trovano il sistema per truffare lo Stato e i risparmiatori che perdono i propri sudati soldini. Chi dovrebbe controllare, e molti di loro se non tutti sono pagati con le nostre tasse, non lo fa. Probabilmente perché ostacolato dal politico corrotto pagato ancora con i nostri soldi. Si verifica il crack, il cui dissesto sarà pagato ancora da noi con nuove tasse. Come si può ben vedere, il sistema economico e finanziario è di fatto senza regole, come del resto vuole chi propone e impone la globalizzazione così decisamente voluta dai grandi furbi. Se il sistema economico e finanziario da cui dipendono le nostre sorti non ha regole, se non il dio denaro, va da sé che anche la politica non ha regole, non le desidera e non sa esprimerne, anche perché regole non ha se non il perseguire il proprio tornaconto. Ne consegue che se la politica non ha compiti sociali e non sa dare regole, allora non ha significato né ragione di essere. Massimo. Immaginiamo per un attimo che Berlusconi scompaia dalla scena politica. Quei 20-25 milioni di italiani che hanno già messo da parte per quell'occasione la bottiglia di spumante, cosa faranno dopo averla bevuta? Il giorno dopo con chi se la prenderanno? Perderanno il loro scopo nel mondo, ve lo garantisco. Conosceranno depressione e desiderio di farla finita. Riusciamo davvero a immaginare un Di Pietro senza Berlusconi? O un Marco Travaglio? Ma chi conosceva Travaglio prima dell'avvento di Berlusconi? Questi personaggi esistono solo perché esiste Berlusconi. Ma veramente si può ipotizzare un Di Pietro che fa una proposta politica? Non scherziamo. E Anno Zero? E le vignette su Vauro? Ah sì, forse a Vauro rimane Rutelli da sbeffeggiare. Io credo però che i peggiori detrattori del Cavaliere siano quelli che tutte le sere in chiesa gli accendono una candelina augurandogli lunga vita. E nell'urna lo votano pure. Ho un'altra curiosità. Ma Don Giorgio De Capitani, quello che aveva insultato i soldati italiani uccisi in Afghanistan, dice ancora messa? Ha a che fare con i fedeli? Gli permettono il luogo consacrato di usare quel linguaggio violento? Una volta, in una vostra trasmissione, l'ho sentito dire che il suo cardinale di riferimento era Tettamanzi. Ma l'arcivescovo di Milano si rende conto della persona che ha le sue dipendenze? Io sinceramente non riesco nemmeno a esprimere le mie perplessità in merito a un personaggio come questo. Mi piacerebbe fare un appello al Santo Padre affinché prenda dei provvedimenti o semplicemente affinché prenda coscienza del fatto che esiste un prete di quel tipo e che dice pure messa. Non aggiungo altro, non ci riesco. Andrea, 32 anni, da Livorno. Nella vostra trasmissione di lunedì scorso, nella quale si discuteva se il termine negro fosse da ritenere offensivo oppure no, un ascoltatore è intervenuto dicendo che alcuni amici americani gli avevano riferito che la parola negro corrispondeva all'offensivo nigger. Questo è vero solo in parte. In inglese ci sono due parole. Una è nigger, che è un sostantivo originariamente usato nel Settecento per indicare gli schiavi importati dall'Africa. Gli schiavisti compravano e vendevano niggers. Ora è considerato un insulto gravissimo. L'altra è negro, di solito scritto maiuscolo, che indica l'appartenenza a un determinato gruppo etnico. In origine non aveva una connotazione negativa. Ancora adesso può essere usato senza nessun intento denigratorio, anche se è considerato démodé. In italiano una parola che corrisponda a nigger non esiste, perché in Italia non si compravano e vendevano schiavi, perlomeno dopo la caduta dell'Impero Romano. Quindi negro traduce sia l'innocuo negro che l'insulto nigger. Dopo gli anni 60 il termine negro è caduto un po' in disgrazia perché era troppo simile a nigger, parola che non si può pronunciare nemmeno per dire che è una brutta parola. Anche per dire che è una parolaccia bisogna sostituirla con N-words. Il termine negro è stato invece sostituito da black, poi da colored e adesso da African American. Se alla fine negro in italiano ha preso una connotazione in toto negativa, pazienza, usiamo pure qualcos'altro. Basta non fare scemenze come importare la parola afroamericani. Giuro che l'ho letta sul foglietto delle istruzioni di un medicinale commercializzato in Italia che descriveva particolari effetti collaterali limitati a quel particolare gruppo etnico. Che è ridicolo identificare con il termine afroamericani. Visto che a un senegalese mai uscito dal Senegal, quel medicinale farebbe sicuramente lo stesso effetto che a un negro di Detroit. Non è vero, inoltre, come ho sentito dire, che nero è un aggettivo mentre negro un sostantivo. Anche negro è un aggettivo. Si può dire, infatti, una donna negra, un bambino negro, il mio fidanzato è negro. La differenza è che negro è limitato agli esseri umani, nero no. Paola. Ricordo benissimo che anni fa Walter Veltroni scrisse un ponderoso articolo, pubblicato addirittura sulla pagina della cultura del Corriere della Sera, nel quale con la sua consueta profusione di parole spiegava che era giusto usare la parola negro perché in italiano la parola nero è sempre stata usata per riferirsi ai fascisti. Del resto i 99 posse cantavano qualcosa tipo «Se vedo un punto nero ci sparo a vista». Girolamo. È triste assistere a questa tragedia di Rosarno. È triste perché sta diventando lo specchio di un paese incapace di affrontare un problema che da anni mostra le sue possibili e drammatiche conseguenze. Nelle parole del ministro sembra che tutto ciò non fosse prevedibile, che fosse solo un problema locale e per questo colpa dei governanti locali e che fosse solo un problema di immigrazione clandestina. È un problema di un'economia che vive sullo sfruttamento, di una criminalità mafiosa. Nelle altre regioni la mafia viene combattuta dallo Stato centrale. E perché a Rosarno la faccenda è solo locale e non dello Stato? E allo stesso tempo è triste che una sinistra, di opposizione o governativa, non abbia messo al centro del proprio impegno la battaglia contro lo sfruttamento nel lavoro degli immigrati in quelle zone. Lascio da parte il sistema dell'informazione perché, a parte i soliti bravi giornalisti, si occupa più volentieri di altre faccende. Ci fosse stata la metà dell'impegno avuto sulla questione delle escort, forse qualcosa si sarebbe anche mosso prima. Non dimentico i cittadini, ostaggio anche loro dell'insipienza. A Rosarno da anni è emergenza nazionale. Rimangono i volontari, i medici, le persone che hanno assistito come potevano quelle persone. ne hanno denunciato la situazione. Ma tanto sono solo volontari. Servono a quello, tappare i buchi, o no? La questione è che non bastano più nemmeno loro. Marco. Prendi un branco di cani, legali, trattali male, a volte picchiali, insultali, non farli nemmeno sentire cani, ma solo bestie, e poi slegali. È successo, e hanno assalito uomini e li hanno uccisi. Non dovrebbe accadere. Ma da noi può succedere che per anni si facciano arrivare centinaia di persone, si sfruttino sul lavoro, si diano loro condizioni di vita disumane e si escludano dalla vita sociale. Non sono un giovane dei centri sociali, nemmeno un ultragrillino o cose del genere, ma sono affranto e sconcertato dal modo con il quale si affrontano questi problemi. Problemi di immigrazione? Scusate, ma qui si parla di un paese che permette per anni che sotto gli occhi di tutti crescano situazioni oltre il limite dell'accettabilità umana. E poi ci si lamenta se questi spaccano tutto. È ovvio che non dovrebbero farlo, certo. Ma guai a prendersi la responsabilità politica di quelle situazioni o capire perché queste cose non vengano denunciate. Come per Balotelli. Certo, un ragazzotto un po' arrogante, ma che viene continuamente fischiato, offeso da centinaia e centinaia di persone ogni domenica, ogni volta che tocca il pallone. Non c'è nemmeno la proporzione dell'uno contro uno, non è nemmeno sportiva la faccenda. È da solo contro centinaia. E mi stupisce che sia solo lui ad arrabbiarsi. A volte basta prendere un cane, legarlo, trattarlo male, picchiarlo, insultarlo e farlo sentire una bestia. Ma proviamo a guardarlo negli occhi e assumiamoci le nostre responsabilità. Marco. Buongiorno, direttore. Sono un elettore che nonostante tutto si ostina a votare a sinistra. Dico nonostante tutto perché la classe dirigente della sinistra non si meriterebbe ancora la mia fiducia, ma io nutro la speranza che prima o poi le cose cambino. Alle primarie ho votato Bersani, che stimo e ammiro come persona integra nei valori e nella morale. Ma adesso basta con queste primarie. Fino a che si parlava del segretario di partito, le primarie potevano avere un senso, perché si voleva dare una chiara dimostrazione di democrazia, ma adesso basta. Basta con i balletti dei nomi, le solite primarie sventolate come la soluzione dei problemi. La gente, e parlo della grande maggioranza degli elettori di sinistra, vuole vedere risolutezza e decisioni. È ora che la classe dirigente si chiuda in conclave e decida nomi e programmi, senza delegare gli elettori a decidere per quale candidato votare. Lo so che le primarie sono un bel esempio di democrazia applicata, ma è triste dirlo. Purtroppo il messaggio che passa è che, come al solito, loro, da soli, non trovano un accordo e addirittura litigano. I politici della sinistra sono troppo idealisti, critici e poco concreti. Io capisco i valori, gli ideali, però ci sono dei momenti nei quali occorre mettere da parte le belle intenzioni e trovare delle soluzioni. Quello che voglio dire è che dovrebbero imparare a fare come la destra, che si riunisce, decide e cerca di dare un'immagine di unità di intenti. A volte sappiamo che non è vero, ma comunque questo è quello che vuole la gente e loro lo sanno bene. La sinistra, sempre per una distorta e autolesionista idea di democrazia, dà voce a tutti ed è come una grande orchestra dove ognuno suona la sua musica, ma quello che arriva alla gente è un rumore di fondo incomprensibile. Peccato. Paolo, Bologna. Caro Paolo, la democrazia è sempre un difficile equilibrio tra l'esigenza di rappresentanza e quella della governabilità. Un equilibrio che va salvaguardato anche se talvolta può sembrare compromettere l'efficacia dell'azione di governo. L'obiettivo di rispettare questo equilibrio deve comprendere da una parte delle regole elettorali che consentano ai cittadini di esprimere la loro scelta e dall'altra dei comportamenti da parte dei partiti che considerano sempre la gestione del potere come un servizio al paese. Ebbene, in questo particolare momento politico abbiamo punti di crisi su entrambi i fronti. La legge elettorale consegna infatti il potere dei partiti, la scelta di nomine di candidati candidature, mentre questi stessi partiti, sia sul fronte della destra sia su quello della sinistra, hanno grossi problemi di autorevolezza e di legittimazione interna. La politica ha invece bisogno di punti di riferimento chiari, ma deve anche lasciare spazi al dibattito e al confronto tra gli elettori. Le elezioni primarie non sono certo una soluzione miracolosa, ma possono aiutare il senso di partecipazione. Ma non è solo un problema della sinistra. Anche la destra, come dimostrano le candidature decise a tavolino in Veneto o in Piemonte, non sembra andare nella direzione di un rispetto della sovranità popolare. Le religioni di successo puntano ad esercitare il potere sui loro avversari. Ci sono stati conflitti religiosi sin dagli inizi dei tempi. Il prendere posizione contro l'altro è ancora una forza coesiva potente. Avere un avversario identificabile ci dà la possibilità non solo di articolare e mostrare la nostra fede, ma anche di unirci a tutti quelli che condividono lo stesso credo. Questo tipo di mentalità, noi contro loro, si può vedere anche in tutto il mondo del consumo e, seppur latente in alcuni momenti, è sempre presente perché di fondamentale importanza. Questa strategia, noi e loro, attrae fan, sollecita alla controversia, crea fedeltà, ci fa pensare e discutere, ovviamente ci fa comprare, che in politica significa ci fa votare. Pensate che un comunicatore come Berlusconi possa farne a meno? Forse degli anticomunicatori come Massimo D'Alema possono crederlo. La potenza della psicologia umana va al di là della voglia di inciucio. Il fascino sensoriale è un'altra caratteristica chiave. Ecco perché volti sorridenti, soddisfatti, non corrucciati, smart, come si dice, attraggono e catalizzano di più. Berlusconi, mini Duomo a parte, ne è l'esempio. Perché catalizza? Perché è incline al fascino sensoriale, sa come ci si deve sempre, dico sempre, atteggiare. Può sembrare un manipolare ed un manipolarsi, un plasmarsi in modo innaturale, ma è l'unica strada. Quelli che vi sono più inclini sono i venditori, che a seconda dei clienti che hanno di fronte si modificano, cambiano atteggiamento e tono di voce, parole ed argomenti. Gli attori poi sono il non plus ultra. Tutti dobbiamo divenire degli attori. Berlusconi è un maestro in questo e finché sarà sulla scena sarà difficile rubargliela, semplicemente perché nessuno lascia da parte il proprio sé e si dedica solamente a piacere come fa lui. Del resto i saggi già nella storia dubitavano di chi piaceva a tutti. Noi siamo un po' più assuefatti e analizziamo meno. Quindi, pur essendo evoluti, siamo esseri visivi ed inclini al fascino del successo. Nessuno potrà mai vantare un 70% di consenso in un sistema democratico variegato, a parte quando si comunica di averlo. Paradossalmente, comunicare di essere forti rende forti. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.